Allerta meteo per Genova e la Liguria, a rischio di forti temporali a partire da stamattina e fino alla mezzanotte di mercoledì. Oggi la firma del decreto di annullamento dei test di medicina. 11.000 studenti dovranno ripetere le prove per la specializzazione. La legge di stabilità ai comuni penalizzate Milano, Reggio Calabria e Roma, ci guadagnano invece Siena, Pavia, Bologna e Modena. Nuove tensioni e violenze a Milano per le occupazioni abusive di case popolari. Lancio di sassi contro due Rom in via del Giambellino. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete, le potete commentare al 349-238-6666 nel corso della trasmissione, oppure scrivendoci a effettogiorno@radio24.it. Buongiorno, in apertura andiamo alla visita del Presidente del Consiglio Renzi a Brescia. Ci colleghiamo con la nostra inviata Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Sì Simone, buongiorno. Oggi qui possiamo dire che è stato condensato tutto quanto il clima del dibattito intorno al lavoro, le tensioni con i sindacati, gli scontri con la piazza, il dialogo con gli imprenditori, il clima difficile delle ultime settimane, insomma, intorno al lavoro. Questa mattina si è spostata tutto all'interno del perimetro di una fabbrica, la Pezzoli di Brescia, dove mi trovo. Dentro il Premier è intervenuto all'assemblea degli industriali, fuori Fiom da una parte, autonomi dall'altra, lo hanno contestato non senza qualche momento di tensione con le forze dell'ordine. Ha parlato per 35 minuti il Presidente del Consiglio, ma è soprattutto sui temi del lavoro che il suo intervento è stato più accorato. Matteo Renzi tuona contro chi prova a sfruttare il dolore dei cassintegrati, dei disoccupati e dei precari per spaccare l'Italia, ma il mio cuore è con loro, dice. Se vogliono contestare il governo e cambiare il Premier, ci provino, ma cerchino un'altra strada, non facciano del lavoro, è l'avvertimento della Premier, il campo di scontro. Proviamo a sentirlo. È calcolato, studiato e progettato un disegno in queste settimane che vuole dividere il mondo del lavoro. C'è l'idea di fare del lavoro il luogo dello scontro. C'è l'idea di mettere gli uni contro gli altri gli operatori del mondo del lavoro. Per il Premier è finito il tempo del si farà, ora o mai più, e questa urgenza del cambiamento per Renzi è come un post-it che ogni mattina, ha detto, gli rammenta il suo progetto di cambiare il Paese. Un progetto di cui il leader degli industriali, Giorgio Squinzi, apprezza il coraggio e la coerenza, soprattutto a proposito della legge di stabilità, anche se all'esecutivo sollecita ora uno sforzo in più perché la manovra, dice, fa invece fatica, nota il presidente di Confindustria, sugli investimenti. E quanto all'annosa questione dell'articolo 18, la richiesta è superare l'attuale disciplina dei licenziamenti. Sentiamo Squinzi. Riguardo alla riforma del mercato del lavoro, il punto centrale su cui misurarla è se renderà meno costoso e più flessibile il contratto a tempo indeterminato, applicando le innovazioni a tutti i rapporti in corso e non creando nuove frammentazioni. Va lasciata alla contrattazione la definizione delle mansioni, superando i limiti anacronistici imposti dalla legge. È da superare l'attuale disciplina dei licenziamenti, riservando la reintegrazione solo ai casi in cui vi siano oggettivi elementi di discriminazione. Allora Simona, poi come dicevi in apertura, sì, questo, tutto questo è dentro. C'è il punto esattamente di quello che è successo fuori, gli scontri, anche con un corteo dei centri sociali, i due uomini delle forze dell'ordine feriti, Raffaella. Sì, esatto, la visita del Premier è stata accolta da una contestazione all'esterno qui della fabbrica. Da una parte c'era il presidio della FIOM e della CGIL e dall'altra successivamente una manifestazione degli autonomi e dei centri sociali si è avvicinata alla fabbrica ma in due posizioni diverse. Hanno provato anche a forzare le barriere per entrare nel perimetro della Pezzoli. Ci sono stati degli scontri con le forze dell'ordine, lanci di uova, un carabiniere e un poliziotto sono rimasti feriti. Non erano in tanti, bisogna dirlo, ma hanno ugualmente creato un clima, diciamo, di tensione all'esterno della fabbrica, che è stato anche questo uno specchio, diciamo, delle tensioni di queste ultime settimane intorno alla Jobs Act e al mercato del lavoro. Simona. Grazie Raffaella per questi aggiornamenti, naturalmente torneremo a sentirti nelle prossime nelle edizioni dei giornali radio. Intanto l'Istat pronuncia il suo giudizio sulla manovra, sentiamo. Un giudizio quello dell'Istat sulla manovra con luci ed ombre. Le misure messe in campo dal governo, spiega infatti l'Istituto di Statistica, avranno un impatto netto marginalmente positivo nel 2014 ed un effetto cumulativo netto nullo nel biennio successivo. Per il bilanciamento tra la spinta del bonus degli 80 euro e gli effetti negativi derivanti dalla clausola di salvaguardia con l'eventuale aumento dell'IVA. Di fatto una compensazione quella generata dalla legge di stabilità, con un prodotto interno lordo che quest'anno farebbe segnare un meno 0,3 in linea con le stime di Palazzo Chigi, per tornare quindi in terreno positivo nel 2015, più 0,5, più 1% nel 2016. Il prossimo anno, secondo l'Istat, segnerebbe quindi la fine della recessione. Quanto alla spesa delle famiglie, l'anno in corso si chiuderebbe con un'inversione di tendenza, più 0,3%. Potere d'acquisto invariato però, nonostante la dinamica dell'inflazione sia eccezionalmente bassa. Notizie positive quindi per il mercato del lavoro, che dopo un lungo periodo di flessione mostra i primi segnali di stabilizzazione. La disoccupazione scenderà al 12,4 nel 2015 con un contenuto aumento dell'occupazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo a Genova ora, dove torna l'allerta per il maltempo. Inizialmente è previsto l'arrivo della perturbazione per le 12. Ci sembra, Andrea Ferro, invece, che l'orario sia stato spostato un po' più in là, no? Buongiorno. Sì, buongiorno Simone, ti confermo, secondo gli ultimi calcoli la perturbazione sarebbe in ritardo e comunque ad un mese dall'alluvione siamo nuovamente in ansia per l'arrivo di un altro fronte perturbato sulle nostre zone. Lo stato di allerta 1 è scattato comunque da poco più di un'ora e resterà in vigore fino alla mezzanotte di dopodomani. Nelle prossime ore si valuterà eventualmente se elevarlo allo stato 2, cioè il massimo in una zona in particolare. Dipenderà dall'elaborazione dei dati che nel frattempo giungeranno dal satellite. Gli ultimi in sostanza dicono, come dicevamo all'inizio, che la perturbazione è in ritardo rispetto ai calcoli iniziali e comunque tra la serata di oggi, la giornata di domani e mercoledì mattina tutta la Liguria è a rischio. In particolare, stando alle osservazioni di alcuni centri meteo, la zona sulla quale dovrebbero scatenarsi le bombe d'acqua potrebbe essere quella alle spalle della riviera di Ponente. Un discorso infarcito di condizionali, perché come è stato dimostrato la sera del 9 ottobre il cielo e le sue minacce non si possono scrutare con precisione scientifica e soprattutto non si può definire in quale area circoscritta la perturbazione potrà scatenarsi con maggiore violenza. Mentre vi parlo, la temperatura è sopra le medie stagionali, lungo la costa sfiora i 20 gradi, venti da sud, mare mosso, condizioni di base insomma favorevoli alla formazione di cielo temporalesche rigeneranti per lo scontro di masse d'aria calde ai bassi strati, più fresche a quelli superiori. Per Genova sono ore di attesa, contrassegnarle le prime misure preventive previste dallo stato di allerta 1, scattate in particolare nei quartieri più a rischio della Val Bisagno, segnati il 9 ottobre dall'esondazione del torrente che è il più importante della città. Il servizio della metropolitana è limitato tra le stazioni di Certosa e di Negro. Ci teniamo aggiornati, nel frattempo ti restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro, e più avanti ci collegheremo con l'assessore della protezione civile del comune di Genova per capire come la città si sta preparando, appunto, come si diceva, a meno di un mese dall'alluvione, a questa nuova perturbazione. Restiamo sulla cronaca e parliamo del clan Belforte, che è stato azzerato nel casertano, ed emergono nuove storie di imprenditori sottoposti a racket. Avevano messo sotto scacco l'intera realtà imprenditoriale dei comuni di Maddaloni, Cervino e Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta. Centinaia i casi di estorsione riscontrati dalle forze dell'ordine in seguito ad un'indagine di cui ci parla il dirigente della squadra mobile di Caserta, Alessandro Tocco. L'indagine parte nel 2011 dal sequestro di un pizzino dove c'erano scritte una serie di attività che erano estorte e sono state riscontrate sentendo i vari imprenditori che molto spesso hanno anche negato che pagavano il pizzo. E solo successivamente hanno trovato il coraggio di denunciare. Con i proventi delle estorsioni, il clan acquistava sostanze stupefacenti in grosse quantità per rifornire i mercati locali. Nel mirino dell'organizzazione anche i titolari dell'impresa, che avevano vinto un appalto di 2 milioni di euro finanziato dalla Conferenza Episcopale Italiana per la realizzazione del complesso parrocchiale di Maddaloni. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Saranno riaperte, come sapete, le indagini sulla vicenda di Stefano Cucchi. A questo è dedicata l'inchiesta di Daniele Biacchessi. È vero, le sentenze dei giudici si rispettano, ma le indagini su un omicidio possono sempre essere riaperte in caso di nuovi indizi e di prove, come previsto dal codice di procedura penale. Da qui è partito il ragionamento del procuratore capo della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone. Lui è un magistrato preparato, uno che ha sfidato l'Ndrangheta a Reggio Calabria e sta colpendo la criminalità organizzata nella capitale ed è indignato, come molti, per la sentenza di secondo grado con cui gli imputati per l'omicidio di Stefano Cucchi, tutti uomini dello Stato, sono stati assolti per insufficienza di prove. Ma allora, da dove ripartire con le indagini? La negligenza più grave sarebbe stata commessa durante l'autopsia. Nel primo esame necroscopico sarebbe stato compiuto l'errore più grave, che ha poi condizionato l'esito delle indagini del processo, cioè il mancato espianto del cuore di Cucchi. In seconda battuta bisognerebbe realizzare nuove perizie, nuove consulenze, azzerandole, suggerisce la parte civile. Le sentenze hanno stabilito senza ombra di dubbio che Cucchi è stato picchiato, ma non dove e da chi. Quindi le nuove inchieste della magistratura romana dovrebbero trovare l'esatto nesso di causalità tra le botte che Cucchi ha ricevuto dopo l'arresto e le persone fisiche che hanno provocato il decesso del ragazzo. Pignatone sentirà la famiglia Cucchi, i suoi legali, dovrà procedere ad una nuova serie di audizioni, ma il suo percorso sembra stretto. Se è vero che la morte di Stefano Cucchi non è ancora una verità giudiziaria immodificabile perché manca la sentenza della Cassazione, è altrettanto vero che la Costituzione impedisce che un imputato possa essere giudicato due volte per lo stesso fatto. Quindi bisognerà cercare fatti nuovi, magari considerando i rilievi della parte civile come una risorsa, non come un ostacolo alla ricerca della verità. Parliamo di università ora. Dopo l'annullamento delle prove per l'ingresso alle scuole di specializzazione di medicina, è atteso per oggi il decreto del Ministero che ufficializza la data dei nuovi test. È stato un problema di inversione, più precisamente un errore nella fase di codifica delle domande, come ammesso da Cineca, il consorzio interuniversitario che ha distribuito i quiz. L'errore che ha portato all'annullamento dei test d'ingresso alle scuole di specializzazione di medicina per oltre 11.000 iscritti riguarda nello specifico le prove del 29 e del 31 ottobre, quelle per l'ammissione alle scuole dell'area medica e dei servizi clinici. Le 30 domande comuni a ciascuna delle due aree, infatti, sono state invertite, un'anomalia subito rilevata dal Ministero che, dopo aver verificato l'errore, ha deciso di annullare le due prove. Il Ministero ha già fissato una data, il prossimo 7 novembre, per la ripetizione dei due test che riguarderanno solo le 30 domande invertite. Siamo scivolati su una buccia di banana, ha commentato il presidente del consorzio Emilio Ferrari, che ieri ha presentato le sue dimissioni. Oggi il ministro Giannini dovrebbe firmare il decreto che conferma l'annullamento delle prove oggetto dell'inversione e l'indizione di quelle nuove, ma le associazioni di medici e di studenti intanto minacciano una pioggia di ricorsi e non escludono una class action. Miriam Corgia, Radio 24, Sole 24 Ore. E più avanti nel corso di Effetto Giorno ospiteremo Marco Lanzarini, che è il direttore di Cineca, appunto il consorzio responsabile dell'errore. Abbiamo in studio con noi adesso Gianni Trovati. Buongiorno Gianni del Sole 24 Ore. Buongiorno. Ciao. A voi. Ciao, bentornato, che oggi ha fatto un po' di conti su quanto ci guadagnano e quanto ci perdono i comuni da questa manovra, perché insomma hanno protestato, hanno detto per noi saranno 3 miliardi in meno, però c'è appunto chi in realtà chi ci guadagna e chi ci perde. Ci spieghi un po'? Sì, allora il punto è fondato su uno scambio. Il governo concede un drastico abbassamento, circa il 70%, degli obiettivi del patto di stabilità, cioè quella cosa che ha bloccato per anni gli investimenti, eccetera, ma in cambio con la riforma della contabilità impone ai comuni di coprire i buchi determinati dalle mancate riscossioni degli ultimi anni, nel senso che i comuni ogni anno iscrivono a bilancio una serie di entrate, ma non tutte, anzi un terzo circa, non entra nelle casse in quell'anno lì per problemi nella riscossione. Naturalmente in genere il tasso di riscossione è, dicevo, intorno al 66%, ma è una media del pollo. Ci sono i comuni che vanno molto bene, o riscuotono l'80, il 90, il 95%, i comuni che riscuotono molto poco, anche il 40-45%. Risultato finale, chi ha riscosso poco, non ha le risorse in cassa per sfruttare questi sconti sul patto di stabilità, che quindi rimangono teorici. Risultato sintetizzato: in generale i comuni del centro-sud, che hanno una macchina della riscossione molto più inefficiente della media, rischiano di trovarsi solo tagli e di non tagli, congelamento di risorse per coprire i buchi della riscossione e di non poter sfruttare nulla del patto. I comuni invece più efficienti, in particolar modo molti comuni dell'Emilia e della Lombardia, potranno sfruttare in maniera anche importante questi sconti sul patto. Cosa vuol dire? Che se c'è da rifare un edificio scolastico, se c'è da rifare una strada e tutte quelle cose per le quali il sindaco fino all'anno scorso diceva io ho i soldi in cassa ma non posso utilizzarli perché c'è il patto di stabilità, bene, tutte queste cose si potranno fare e anche i pagamenti alle imprese fornitrici dei comuni potranno arrivare con un po' più di puntualità. Ecco, in questa classifica poi tutti i dettagli li trovate naturalmente sul Sole 24 Ore con tutta la lista dei comuni. Ci dicevi, i comuni del sud sono quelli che in questo caso ci perdono di più perché hanno saputo riscuotere peggio, meno, però esatto. C'è anche Milano. C'è anche Milano, ma Milano ha una spiegazione particolare. Milano ha sperimentato già in questi anni la riforma della contabilità, quindi la applica già a regime, quindi a vincoli, diciamo Milano, Brescia, Prato e altri comuni, Arezzo, hanno vincoli più forti perché applicano la riforma già a regime. È inutile andare nel tecnico, comunque tutti gli altri la applicano per metà dal 2015 e poi a crescere negli anni successivi. Milano e altri comuni un po' più avanti, quindi hanno più risorse congelate. Comunque se guardiamo invece all'altro lato della classifica, appunto Pavia, Parma, Reggio Emilia, insomma le città medie del centro-nord sono quelle che potenzialmente hanno le migliori notizie dalla manovra. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Renzi in visita a Brescia attacca, sfruttano il dolore dei lavoratori per attaccare il governo, scontri durante la visita del Presidente del Consiglio. A meno di un mese dall'alluvione scatta una nuova allerta meteo per Genova e la Liguria, inizialmente prevista per mezzogiorno, scatterà da questa sera. Oggi la firma del decreto di annullamento dei test di medicina, 11.000 studenti dovranno ripetere le prove per la specializzazione. Nuove tensioni e violenze a Milano per le occupazioni abusive di case popolari, lancio di sassi contro due rom in via del Giambellino. Siamo allo sport, adesso iniziando dal calcio, abbiamo parlato di una Genova ferita dall'alluvione quasi un mese fa che si prepara probabilmente nuove ore di passione, speriamo non come quelle dell'ottobre scorso, e che però festeggia due squadre che vanno veramente bene. Meglio così in questa Genova minacciata dalla pioggia infinita. La buona notizia è che la rinascita della città comincia dal calcio. Dopo 10 giornate Sampdoria e Genoa, terza e quarta, hanno più punti di Milan e Inter e gli stessi di Juventus e Torino. Certo, il calcio è una piccola cosa quando nella vita quotidiana devi spallare fango, però anche le piccole cose aiutano a risalire la china, danno forza e coraggio e fanno venire in mente bei ricordi, come quando 24 anni fa, nell'eccezionale campionato 90-91, Doriani e Grifoni spezzavano l'asse Milano-Napoli. Era l'epoca di Viali e Mancini, Aguilera e Scuravi. La Samp, con Boscovi in panchina, vinceva il suo primo scudetto. Il Genoa, con Bagnoli, si giocava l'UEFA e il quarto posto. Era gente di Riviera. Boscov diceva rigore è quando arbitro dà. Bagnoli, il terzino fa il terzino e il mediano fa il mediano. Ora ci sono Mihajlovic e Gasperini, ma tengono botta. Intanto la crisi di Inter e Milan, con quei fischi per tutti, ci rimanda al triste autunno del calcio milanese, tanti nodi al pettine, tre eccessi di rinnovamento l'Inter e eccessi di passatismo il Milan. Ma che malinconia! Dario Ceccarelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Così per quanto riguarda il calcio, invece c'è una storia che arriva dall'Iran e che riguarda la pallavolo. La pallavolo non è un reato. Ci è voluto ieri questo cartello esposto dalla squadra maschile di Padova prima del match di campionato con Perugia, insieme alle proteste del web e di Amnesty International, per ribadire un concetto che a Teheran e dintorni non è certo scontato. A un anno di reclusione è stata infatti condannata Gonchek Ghavami, 25enne iraniana residente a Londra, che il 20 giugno scorso voleva entrare, insieme ad altre attiviste di un'organizzazione umanitaria, alla Zadi, il palasport di Teheran, per assistere alla gara di World League maschile tra la nazionale iraniana e l'Italia allenata da coach Berruto. Provocazione evidente quella di Gončić e soci. Alla legge in vigore fin dal 1979, anno della rivoluzione comeinista nel paese, che vieta alle donne di assistere a gare di calcio, ed estesa nel 2012 proprio al volley, sempre più popolare in Iran. Arrestata nei giorni successivi in modo pretestuoso, la donna dovrà ora scontare un anno di reclusione nel carcere di Evin, famigerato luogo di detenzione degli oppositori al regime. Amnesty International ha parlato di sentenza spaventosa e ha definito la donna prigioniera politica. Sul web si moltiplicano appelli e petizioni. Ma perché le istituzioni internazionali e i governi occidentali non parlano ufficialmente di questo caso? Risposta semplice nel suo cinismo. Tra New York, Vienna e Teheran il nodo del nucleare iraniano è tutt'altro che sciolto, senza contare le costanti tensioni geopolitiche e medio orientali. Altari su cui sacrificare, in nome della realpolitik, i più elementari diritti civili e umani. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Marco Lanzarini è il direttore di Cineca, che è il consorzio che si deve occupare, che si è occupato dei test di specializzazione a medicina e sostanzialmente responsabile dell'errore che ha portato a tutto quel che sappiamo. Lanzarini, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, oggi dovrebbe arrivare il decreto del ministro che, come raccontavamo nella prima parte di Effetto Giorno, dovrebbe ufficializzare la data dei nuovi test. Nel frattempo c'è un sms da un ascoltatore che dice: sono un medico che ha sostenuto le prove, rifarò la prova ma adirò alle vie legali subito dopo, perché quello che è successo è inaccettabile. È stato un errore tecnico o un errore umano, Lanzarini? No, è stato un errore umano. Purtroppo abbiamo scambiato due indici, come si dice in gergo, e io chiedo scusa anche al signore che le ha appena mandato quell'SMS per tutto ciò che abbiamo provocato, però si tratta di un mero errore umano che purtroppo oscura invece l'automazione di un processo complesso e articolato che avrebbe rappresentato una rivoluzione per la pubblica amministrazione e l'università in particolare, perché il processo era stato costruito in modo da consentire la costruzione di 54 graduatorie nazionali. Pronto? Perché sì, ci siamo. No, ci siamo, prego. Avrebbe consentito di costruire 54 graduatorie nazionali a partire da altrettanti test per le varie scuole, non sono 54, beh sì, in totale sì, dinamicamente composti al momento in cui il candidato si presentava sulla postazione di lavoro, perché in tutto questo processo, dalla presentazione delle candidature allo svolgimento della prova, non c'è girato un foglio di carta, per esempio. Senta, allora tutto questo è interessante e importante, perché anche il processo era innovativo, però la domanda è questa: se un errore umano potrebbe ripetersi, posto che questa volta farete estrema attenzione, immagino. Certo, non si ripeterà, perché avendo individuato dove è stato commesso l'errore, cerchiamo di non commettere mai due volte lo stesso errore, cerchiamo di imparare dagli errori che commettiamo. Però non c'è un modo di far sì che, come dire, la tecnologia aggiri, no, la possibilità di un errore umano? L'errore umano no, purtroppo non c'è verso, a meno di non immaginarsi come avremmo dovuto fare un controllo ulteriore rispetto a quelli che sono stati fatti e che facciamo normalmente. Quindi è mancato un ulteriore passaggio di controllo, dice, esatto, lei, Lanzarini, esatto, esatto, che avete inserito, immagino a questo punto inserirete per il prossimo test all'interno delle procedure. Come il prossimo test se avverrà, perché io sono in attesa di disposizione del Ministero, Non presenterà neanche questi rischi, perché il problema si è presentato nella costruzione di una base dati molto articolata che ha trasportato i quiz dal CD che era stato consegnato al Ministero una base dati dalla quale poi in modo casuale abbiamo estratto i quiz a comporre delle prove, una diversa dall'altra nelle varie scuole di specializzazione. Grazie a Marco Lanzarini, direttore di Cineca. Le segnalo l'SMS di un ascoltatore che dice chapeau a chi viene in radio e chiede scusa, e chiedo scusa io invece a Paolo. È vero, sono tutti medici, non sono studenti. Se ho detto studenti l'ho detto per errore. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ci sono alcune notizie appena battute dalle agenzie. La prima riguarda il rinvio a giudizio per Denis Verdini e per l'ex sottosegretario all'economia Nicola Cosentino, coinvolti in un capitolo della vicenda P3, la presunta organizzazione segreta che puntava a condizionare alcuni organi dello Stato. Lo ha deciso il GUP di Roma. Il corpo di Russell Rebello, l'ultima vittima della Concordia, un cameriere che veniva da Mumbai, è stato individuato a bordo del relitto della nave ormeggiata a Genova per essere smantellata. Era sul ponte 8. Renzi attacca, sfruttano il dolore dei lavoratori per attaccare il governo. Scontri durante la visita del Presidente del Consiglio a Brescia, feriti due uomini delle forze dell'ordine. A meno di un mese dall'alluvione scatta una nuova allerta meteo per Genova e la Liguria, a rischio di forti temporali a partire da questa sera. Oggi la firma del decreto di annullamento dei test di medicina. 11.000 studenti dovranno ripetere le prove per la specializzazione. Medici dovranno ripetere le prove per la specializzazione. La borsa. Borse in diretta. Giornata negativa, 1,5% di calo per il FTSE MIB, l'1,37 per il FTSE All Share, giù Francoforte dello 0,6, Parigi dello 0,6 anche qua, mentre Londra cede lo 0,44%. Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come mai è negativa la borsa? Beh, Milano, diciamo, una giornata complessivamente non positiva, anche perché gli indici europei sul settore manifatturiero non hanno riservato sorprese particolarmente positive. Mi riferisco all'indice sull'attività manifatturiera di ottobre. Milano è particolarmente negativa perché è zavorrata da due o tre titoli pesanti che stanno andando particolarmente male. Mi riferisco a Snam e a Terna. Snam perde il 12%. Nel weekend, o meglio venerdì, era stata pubblicata dall'autorità dell'energia la revisione al sistema di remunerazione dello stoccaggio del gas. I criteri utilizzati sono considerati dagli operatori particolarmente negativi per Snam, e il timore che possano essere estesi agli altri, alle altre attività che fornisce Snam e anche l'attività di Terna, e questo fa tremare i titoli, tant'è che anche Terna perde il 6,5%. In 10 secondi Monte dei Paschi. Monte dei Paschi è partita molto male, nonostante l'annuncio del progetto di piano industriale di ricapitalizzazione da 2,1 miliardi, ha poi reagito, soprattutto quando il socio AXA si è detto disponibile a sottoscrivere pro quota, quindi intorno al 4%, l'azione sale del 5%, un rimbalzo che ci sta dopo almeno 40% in una settimana. Grazie Andrea Fontana, buona giornata. Buona giornata a voi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 1.300 tentativi di occupazione di alloggi popolari dall'inizio di quest'anno ed episodi di violenza che si moltiplicano. Ieri un lancio di sassi contro due ragazze rom incinta che sono riuscite a rimanere chiuse dentro casa e poi sono riuscite a fuggire. Stiamo parlando di Milano. Saluto Gian Valerio Lombardi, che è stato prefetto di Milano e adesso è presidente dell'ALER, che è l'azienda milanese dell'edilizia popolare. Buongiorno Lombardi. Buongiorno a lei, saluti. Benvenuto. Che cosa sta succedendo? Guardi, negli ultimi tempi le occupazioni abusive sono purtroppo aumentate e naturalmente noi come azienda che si occupa di case popolari siamo i proprietari, insomma siamo un po' le vittime di tutto questo sistema. Naturalmente abbiamo approntato delle misure, abbiamo creato una squadra di ispettori e cerchiamo in tutti i modi di poter stroncare questo fenomeno, però in effetti l'intervento principale è competenza delle forze di polizia e degli assistenti sociali del comune. Ma da cosa dipendono queste occupazioni? È un portato della crisi o c'è altro? Ma guardi, io sono stato prefetto, come lei ha detto prima, quindi quando ero dall'altra parte avevo preteso che gli interventi per gli occupanti avvenissero in flagranza. Perché? Perché questo avrebbe avuto due effetti: evitare sul nascere la nuova occupazione e praticamente far desistere nuovi occupanti dal farlo, sapendo che non ci sarebbero state speranze di restare dentro. Ora, negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, insomma, non sta a me adesso dire che cosa sia cambiato, però la verità è che si registra il ritmo di circa due occupazioni al giorno, insomma, il fenomeno mi pare parecchio preoccupante. Non sta lei a dirlo, però si sarà fatto un'idea di che cosa è cambiato. Ma guardi, un fatto è che l'intervento delle forze di polizia per varie ragioni non è più totale come avveniva qualche anno fa, e quindi lei capisce che quando poi le persone occupano, una volta che si interviene in ritardo, è molto più difficile ottenere il risultato. E poi abbiamo anche registrato che la parte assistenziale, che spesso si accompagna a questi interventi, che so, la mamma incinta, eccetera, che deve essere risolta dal comune, perché il comune è, per le leggi Bassanini, il soggetto titolare competenze all'assistenza. Ecco, loro dopo le 4:30, le 5 non mandano più gli assistenti sociali, per cui chi vuole occupare è sufficiente che vada subito dopo questo orario per avere, diciamo così, la certezza che può realizzare l'occupazione. In tutto questo mi sembra di capire che si siano riscontrati parecchi problemi, soprattutto con i Rom, anche in termini di episodi di violenza nei loro confronti, oltre che di occupazioni vere e proprie lombardi. Beh, in effetti anche qui, siccome c'era stata una gestione per l'emergenza dei nomadi al tempo in cui ero prefetto, scusi se mi cito, ma perché così ci sta una continuità storica, e noi allora avevamo anche sistemato la vicenda dei nomadi. Anche qui da qualche anno il problema dei nomadi che non hanno praticamente una sistemazione si va aggravando, ed è chiaro che l'osmosi poi porta all'occupazione di queste abitazioni. Senta, da qualche anno che continua a dire, mi sembra lei faccia riferimento all'attuale amministrazione di Milano. Beh, insomma, non solo a quello, voglio dire che è una cronologia di eventi. Adesso non voglio riferirmi specificatamente al fatto che l'amministrazione comunale sia cambiata, però dal punto di vista della cronologia le cose sembrano coincidere. Grazie a Gian Valerio Lombardi, che è presidente dell'ALER, l'azienda milanese dell'edilizia popolare. È una vicenda sulla quale vogliamo rimanere perché, come vi abbiamo raccontato, si sono scatenati anche episodi di violenza. L'assessore Crivelli, Gianni Crivello, l'assessore della protezione civile del comune di Genova, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Come vi state preparando? Perché sappiamo che da stasera è prevista una nuova ondata di maltempo. L'allerta 1 è partita dalle ore 12 di quest'oggi, per cui già nei giorni scorsi, ieri compreso, domenica, io ho riunito il COC, che è, diciamo, il centro di organizzativo di coordinamento, per attivare tutti, diciamo, quei protocolli che sono previsti per quanto riguarda le nostre attività, il che sta a significare l'attivazione naturalmente di tutte le squadre dei volontari, ma in particolare il presidio e territoriale, il controllo di tutta una serie di realtà territoriali, rivi, ma in particolare voglio ricordare che a seguito dell'alluvione dei primi giorni dell'ottobre noi abbiamo attivato qualcosa come 48 somme urgenze, vuol dire che abbiamo 48 cantieri assolutamente diversi uno dall'altro tra loro, ma che vanno presidiati oltre a questo territorio così fragile che, come dire, ci preoccupa molto. Brevemente, assessore, siete già riusciti a mettere mano al bisagno che è stato la fonte principale dei disagi, del disastro più che del disagio, certo, del mese scorso? Il bisagno inteso come interventi, ancora ieri abbiamo proseguito alcuni interventi al di sotto, diciamo, della copertura, che interventi di materiale post alluvione, sottolineo post alluvione perché è fondamentale dirlo, quindi non era materiale presente che ha determinato l'esondazione. Ovviamente poi sono in calendario la prosecuzione della copertura del Bisagno, come anche lo scolmatore del Saleggiano, lavori che partiranno, ma stiamo parlando naturalmente di grandi lavori a medio e lungo termine che partiranno nella primavera del 2015, insomma. Allora, assessore Gianni Crivello, io la saluto, la ringrazio e speriamo di non dover tornare a disturbarla nei prossimi giorni, perché vorrebbe dire che a Genova le cose vanno bene. Abbiamo Valentina Ceppetelli dal Burkina Faso, buongiorno. Buongiorno a voi. C'è un po' di ritardo naturalmente dovuto al luogo dove si trova, responsabile del paese per GVC, il gruppo volontariato civile di Bologna, si occupano di progetti di malnutrizione e sicurezza alimentare, si trova nella capitale, è là con i suoi due figli, e dato che, come abbiamo raccontato la settimana scorsa, ci sono state violenze, il presidente è stato costretto a fuggire, in questo momento la situazione sembra nelle mani dei militari, da quel che abbiamo appreso, vorrei capire com'è la situazione per voi italiani che vi trovate là. L'ambasciatore ci aveva detto 200 persone, forse adesso qualcuno di meno, qualcuno è riuscito a partire. Vorrei sapere come state. No, siamo nel complesso bene, fortunatamente, sì, una comunità italiana abbastanza numerosa, concentrata principalmente a Ouagadougou, la capitale, ma anche dislocata in altre città del Burkina Faso. Sia lavoratori del settore cooperazione internazionale che lavoratori del privato o gente che vive qui da molti anni. Siamo tutti bene, nessuno ha avuto dei problemi particolari, tutti chiaramente un po' in apprensione, per chi vive qui con la famiglia come nel mio caso. A lei le sono piovuti proiettili in casa da quel che sappiamo? Purtroppo ieri mattina sì, perché la situazione sembrava assolutamente essersi rivolta verso la calma, e ieri mattina è ricominciato a sparare perché c'è stata una situazione in rapido un'evoluzione che nessuno si aspettava, quindi due autoproclamazioni presidenziali nel giro di mezz'ora, chiaramente l'esercito è intervenuto e sono state sparate delle raffiche di mitraglietta per disturbare la folla che stava occupando RTB, la radio e televisione nazionale, e purtroppo una pallottola vagante ci è entrata in casa, per fortuna non c'eravate, non dare nessun danno, molto spesso non c'eravate. Seta, in 10 secondi, in 30, 20 secondi, la Farnesina, l'ambasciata, che in realtà è l'ambasciata ad Abidjan, vi stanno assistendo? Ci stanno assistendo, oggi rimaniamo un pochino tutti vigili perché stamattina sono appena uscito da una riunione alle Nazioni Unite, 10 minuti fa, stamattina il colonnello Vida si è riunito con le Nazioni Unite e con le ambasciate per dire che la situazione è sotto controllo e vogliono restaurare un regime democratico il prima possibile. Chiaramente oggi pomeriggio ci sarà una conferenza stampa alle 3 da parte dell'opposizione. C'è questo affrontamento tra il popolo burkinabè, che ha dato una grande prova di maturità, sì, politica e della società civile, e chiaramente l'esercito, che purtroppo vuole fare la sua parte. Speriamo che questo si possa risolvere in maniera assolutamente pacifica e allora, negli interessi del popolo burkinabè. Sì. La ringrazio, grazie a Valentina Ceppetelli dal Burkina Faso. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York. Mario Platero, una maratona tutta keniota, quella di ieri a New York, decisa sia per gli uomini che per le donne negli ultimi secondi. Duello fra keniote, ha vinto Mary Keita Newt in 2 ore 57 minuti 7 secondi. Pensate, appena 2,5 secondi di vantaggio su Jelagat Tsungong. Finale entusiasmante per gli uomini. Il keniota Wilson Kipsang, 32 anni, contro l'etiope Lelisa De Sisa, 24 anni, una battaglia personale, una gomitata da parte di De Sisa Kipsang, vicini al traguardo, sprint di Kipsang che vince in 2 ore 9 minuti 59 secondi e ottiene il titolo mondiale per la terza vittoria in una grande maratona in 2 anni. Italiani, ottimo risultato per Valeria Strani, ottava, 2 ore 29 minuti 23 secondi, Danilo Goffi, primo degli italiani, per lui 2 ore 19